Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Se dovesse rientrare in Italia, c'è qualche domanda che in questi anni le è rimasta nel cassetto? La domanda è sempre quella: perché? A che fine questo odio? Questa domanda Alberto Torregiani la conserva da anni ed è con la speranza di riuscire un giorno a porgerla direttamente a Cesare Battisti, che sta seguendo il braccio di ferro diplomatico per l'estradizione dal Brasile all'Italia dell'uomo condannato anche per il delitto di suo padre. A favore dell'estradizione perché in democrazia le pene vanno scontate, dice, è il procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro, che guida il Dipartimento Antiterrorismo, quella squadra di PM che indagò, fece catturare e poi condannare all'ergastolo l'ex leader dei proletari armati per il comunismo, ma nota Spataro anche la diversa condotta politica di fronte a casi analoghi. Non ho alcun dubbio, è una battaglia che va fatta anche se in ipotesi dovesse essere persa, quindi io sicuramente apprezzo quello che il governo sta facendo. Devo però aggiungere che un po' mi meraviglia che non sia stata fatta la stessa battaglia anche in altri recentissimi casi. Quando la Francia ci ha negato l'estradizione di Marina Petrella, la situazione della Petrella era assolutamente identica, una persona condannata all'ergastolo per omicidio. Lì, devo dire, non si è fatto neppure un colpo di tosse, questo non è molto coerente. Però bene adesso si fa nell'insistere presso le autorità brasiliane. Ci sarei arrivata tra poco, ma visto che lei ha subito accennato al caso della Petrella, non è stato l'unico, ci sono stati degli altri casi. Mi viene in mente anche quello di Casimirri, ad esempio, in cui di fronte al no all'estradizione di una persona condannata la battaglia non è proseguita. Casimirri non è dalla Francia, però Casimirri è anche un altro paese del Sud America, esatto. Quindi allora quello che io affermo è che adesso si sta facendo una battaglia sulla base di un trattato di estradizione che esiste tra due paesi, così come esisteva con la Francia. Certo, bisognava farlo sempre e dovunque, ma il caso della Petrella è recentissimo, quindi è ovvio che viene immediatamente all'attenzione, visto che si tratta di pochi mesi fa, ecco, questo volevo dire. Perché è sembrato però in realtà, ed è stato anche un po' un argomento di polemica questo, che si voglia un po' portare avanti una battaglia quasi di bandiera, no? Su una persona rispetto ad altri 75 latitanti ex terroristi italiani. Ci sono delle valutazioni politiche e quindi di queste si deve parlare col potere politico. Quello che le posso dire è che come magistrato, ma non solo io, come anche tutti i miei colleghi che sono occupati della materia pensano, non ci può essere alcuna eccezione alla necessità di pretendere l'applicazione dei trattati estradizionali, e ovviamente però questo comporta che lo Stato richiesto possa anche rifiutare, ma non vi è dubbio che il comportamento dello Stato italiano deve essere coerente. Non è una battaglia di principio o, come dire, di tipo formale. La democrazia italiana in quegli anni è stata posta quasi a rischio da questi criminali e non c'è assolutamente ragione e quindi di non pretendere che essi scontino le pene che sono state loro comminate dai tribunali italiani. Anche e forse soprattutto per rispetto di quei familiari delle vittime che reclamano una giustizia che non sia soltanto teorica nelle sentenze ma anche concreta nelle pene da scontare. Ma non c'è il minimo dubbio, la situazione delle vittime del terrorismo e dei loro familiari peraltro è molto attiva, personalmente ho contatti con loro, si battono sui loro siti. Nel sito dell'associazione familiari vittime del terrorismo vi è anche l'insieme di tutte le sentenze pronunciate a carico di Battisti, basterebbe andarsene a guardare per vedere quanto siano fasulle certe affermazioni degli amici di Battisti. A lei è mai capitato di dover raccogliere una, diciamo così, mi passa il termine, uno sfogo di un familiare di vittime di terrorismo sul fatto che ex terroristi condannati, latitanti, abbiano la possibilità di, al di fuori dell'Italia, di condurre vite normali, di rifarsi una vita, quindi di una quasi, diciamo così, impotenza nel veder applicate le pene che pur sono state stabilite dalle sentenze dei tribunali italiani? Beh, direi di sì, ma aggiungo, io condivido anche la rabbia che molti di loro hanno espresso attorno alle esternazioni cui continuamente assistiamo in Italia di ex terroristi, i quali non condannano mai in maniera inequivoca la lotta armata, ma cercano in qualche modo di legittimarla addirittura a 30 anni di distanza. Devo anche dire per completezza e per onestà che spesso i familiari delle vittime hanno anche lamentato trattamenti eccessivamente favorevoli nei confronti dei pentiti, però in quel caso, pur se mi rendo conto che il dolore è, come dire, non è razionalmente valutabile da chi non lo prova, vi è perlomeno una legge approvata praticamente all'unanimità dal Parlamento italiano, una nel 79 e un'altra nell'82, che legittima quelle riduzioni di pena, per cui non vi è dubbio che attraverso quei pentiti abbiamo anche salvato molte altre vite umane. Lei ha parlato dei pentiti da un punto di vista, diciamo, giuridico. In questa polemica che è ancora in corso sul caso Battisti, più volte si è detto che per quella stagione precisa degli anni di piombo, da parte di chi ne fu protagonista, non c'è stata ancora ammissione e espressione di pentimento. Anche lei la vede così? No, con delle specificazioni. L'Italia ha attraversato, rispetto al periodo della fine dei cosiddetti anni di piombo, due diverse fasi. Tra il dicembre 79 e il maggio 82, quando progressivamente venivano fuori i collaboratori processuali, sono state approvate ben due leggi che hanno consentito a chi l'avesse voluto di ottenere grossi benefici, anche la libertà provvisoria, confessando e chiamando in correità i complici. Questa è una prima fase che ha avuto una importanza decisiva, unitamente alla specializzazione delle forze di polizia e della magistratura, nella sconfitta del terrorismo. Successivamente, anche coloro che non avevano confessato accusando i complici hanno avuto un'altra chance molto importante, e cioè una legge approvata nell'87, cioè 5 anni di distanza dalla seconda in favore dei pentiti. Lì bastava confessare i reati commessi senza chiamare in correità, condannare la lotta armata, e molti se ne sono avvalsi. Dunque abbiamo decine ma centinaia di persone che hanno avuto il modo di dissociarsi attivamente. Quello che non è avvenuto è che si siano poi dissociati e fino in fondo coloro che pur potendo avrebbero potuto valersi della legge, ma che invece hanno tenuto comportamenti o da cosiddetti riducibili o comunque da persone che ancora oggi, addirittura 30 anni, in qualche modo tentano di legittimare quelle condotte, quasi si fosse trattata di una guerra bilaterale, non invece di una guerra dichiarata da una sola parte. Questo è il ristorante Cueva del Buzo? Sì. È possibile parlare con il proprietario? E che fa lei? Io sono una giornalista. Ecco, allora non c'è niente a parlare, grazie. Questa è la voce di Alessio Casimirri, nome di battaglia Camillo. Condannato nel processo Moro Ter, vive in Nicaragua ed è uno dei 75 latitanti degli anni di piombo. Di molti si conosce quasi tutto, eppure sembrano quasi dimenticati. Casimirri ha ottenuto la cittadinanza del Nicaragua, mentre a Battisti, condannato per 4 delitti, il Brasile ha concesso lo status di rifugiato politico sul fondato timore, spiega il Ministero della Giustizia, di persecuzione per opinioni politiche. Parole che hanno infiammato lo scontro sulle due sponde dell'oceano, e più volte ai media brasiliani si è rivolto anche l'aggiunto milanese Spataro, che ha avuto espressioni molto dure in un intervento su un settimanale. Io non esito ad affermare che queste valutazioni sono offensive, ma non per i singoli giudici, ma per la democrazia italiana, e ricordo sempre, a costo di essere ripetitivo e forse anche tendente al retorico, che il Presidente della Repubblica Pertini disse, con parole di cui si può essere orgogliosi, che l'Italia è uno dei pochi paesi, se non l'unico, che ha sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi. Quindi questi signori, anche se abbiano eventualmente responsabilità politiche, io credo che non si siano minimamente informati. Ho partecipato anche a dei dibattiti in università francesi, dove pseudo intellettuali affermano che in Italia ci sono i tribunali militari, cioè una ignoranza assoluta che non depone per la serietà delle persone che fanno queste affermazioni. L'Italia fortunatamente conosce un sistema di garanzie riconosciute e praticate, e mi permetto di dire che l'Italia è l'unico paese al mondo che ha portato dinanzi a un tribunale appartenenti a servizi segreti italiani e stranieri che hanno ritenuto di fare la lotta al terrorismo violando i diritti umani, quindi questo mi pare che sia un dato che non può essere trascurato da queste persone quando si permettono di dire certe cose sul nostro sistema giudiziario. E da un punto di vista più ampio, il ministro della giustizia brasiliano dice che l'Italia non ha ancora fatto del tutto i conti con gli anni di piombo, visto dall'osservatorio particolare di chi questi terroristi ha cercato di condannarli, queste parole come vengono giudicate? Ma in pratica il mio giudizio è quello di prima, si tratta di una persona che non conosce nulla della nostra realtà o forse conosce soltanto le parole che ha sentito dagli amici di Battisti, dagli avvocati di Battisti. Ecco, io penso che prima di scrivere ciò che ha scritto nell'atto con cui è stato concesso l'asilo politico, il ministro della giustizia avrebbe dovuto interpellare le autorità italiane. In quel provvedimento che io ho letto sono citate affermazioni anche di pseudostudiosi che sono anche conosciuti in Italia per aver detto in maniera incredibilmente non vera che il nostro è un sistema che non garantiva le persone. Ci sono almeno 10 volte tanti studiosi che hanno riconosciuto l'opposto. Ecco, soprattutto quello che lamento è un difetto di informazione e di interpello. Non è stata minimamente presa in considerazione la necessità di capire che cosa era avvenuto in Italia. Eppure da più voci, lei prima parlava di intellettuali francesi, ma c'è stato anche un manifesto firmato da 500 nomi e firme note in Francia che parlano di un revanchismo punitivo in Italia verso gli anni 70. Certamente la lobby degli intellettuali francesi era molto forte, non era solo ristretta a quella degli scrittori e dei cosiddetti giallisti. Quando sono uscite queste affermazioni in Francia, io ho avuto il piacere, la fortuna di vedere ospitato il mio lungo articolo su Le Monde, altrettanto il collega Bruti Liberati, dove abbiamo contestato una per una le affermazioni, smentendo i fatti. Provi a immaginare, per esempio, che uno degli argomenti usati era che la ingiustizia della condanna di Battisti derivava dal fatto che lui era stato condannato per 2 omicidi commessi nello stesso giorno ad orari molto ravvicinati, uno a Milano e uno vicino a Venezia, e dunque dicevano: guardate l'ingiustizia, è chiaro che Battisti non poteva essere sia a Milano che vicino a Venezia. Ora, salvo ritenere che i magistrati fossero minorati mentali, quelli che avevano condannato Battisti, sarebbe bastato andare a leggere le sentenze e di lì si sarebbe ricavato che Battisti era accusato di essere stato esecutore in un caso e co-organizzatore dell'altro omicidio, si tratta degli omicidi Torreggiani e Sabbadin, che furono commessi per punire queste due persone che avevano reagito quando avevano subito precedenti rapine. Il volantino unico rivendica i due omicidi, quindi era un piano unico in cui si dividono gli assassini, 4 in un caso e 4 in un altro. Tutti sono stati condannati per tutti e due gli omicidi. Quindi questi, io li chiamo pseudo-intellettuali, ancora una volta hanno ritenuto di accettare senza alcuno sforzo critico quanto veniva loro raccontato. Dico pseudo-intellettuali perché riconosco, ovviamente ci mancherebbe altro, il diritto di pensare diversamente, ma se fossi di fronte a un giornalista d'inchiesta direi che non lo è, perché se non indaga non è un giornalista serio. Altrettanto un intellettuale, un accademico, prima di prendere una posizione basata su delle sciocchezze e falsità, dovrebbe quantomeno informarsi, leggere. Insomma, ecco, questo non è avvenuto mai. Ci sono state reazioni ai vostri articoli? Certamente io personalmente, sia in Francia sia più recentemente al Brasile, sono stato sommerso da intanto mail, messaggi di approvazione e soprattutto da parte di molti che erano coinvolti in queste campagne. Come dire, ho ricevuto conferma che non erano noti i fatti, le sentenze che sono di centinaia e centinaia di pagine che sono sui siti internet. Ecco, io questo mi aspetterei da persone che prendono posizione in campagne stampa ed opinione. Storielle. Storiacce. Dagli incontri nei circoli intellettuali in Francia ai contatti con i media brasiliani, il procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro sta seguendo da vicino tutta la battaglia che approva per l'estradizione di Cesare Battisti, l'ex leader dei PAC. Procuratore, in questa vicenda è intervenuto anche il Parlamento europeo con una risoluzione in cui sollecita il Brasile a tener conto e a rispettare appunto una sentenza di uno Stato comunitario, ossia l'Italia, che ha condannato all'ergastolo Battisti. Lei che ha avuto anche per altre vicende come quella del rapimento Abu Omar rapporti intensi anche con gli organismi comunitari, ritiene che anche la voce dell'Unione Europea possa in qualche modo avere un peso in questa vicenda, oppure è esclusivamente da lasciare ai due paesi in questione? Io apprezzo e reputo importantissima la presa di posizione del Parlamento Europeo. È un documento che conferma come nelle istanze politiche europee l'attenzione per certi temi sia persino più alta che nelle singole situazioni dei singoli stati. Vale questo anche per la Corte di Giustizia per la tutela dei diritti umani, che a Strasburgo si occupa appunto delle violazioni dei diritti umani. Allora, però, devo anche dire che si tratta di risoluzioni di principio e che certamente, non essendo il Brasile membro dell'Unione Europea, non possono vincolarlo. Mi permetto di aggiungere, non voglio fare una nota polemica, ma semplicemente ricordare che lo stesso Stato italiano ha rifiutato di dare corso alle risoluzioni del Parlamento Europeo e della Corte di Strasburgo riguardanti il caso Abu Omar. Ci sono state risoluzioni che hanno invitato l'Italia a non ostacolare l'azione della magistratura italiana e in realtà i governi italiani hanno sollevato ben tre conflitti, mi riferisco sia al governo Prodi che al governo Berlusconi. Ha citato la vicenda Abu Omar, argomento simile, si discute della chiusura di Guantanamo, visto che stiamo parlando di leggi, diciamo, di come far fronte a pericoli di terrorismo, sia pur di tipo completamente diverso. L'ipotesi della chiusura di Guantanamo, affrontata dal neo presidente degli Stati Uniti, pone in ballo anche il capitolo che cosa fare di questi detenuti. Se si trovasse un accordo perché arrivassero anche in Europa, secondo lei che status potrebbero o dovrebbero avere? Io ho avuto anche lunghi contatti con l'organizzazione Reprieve inglese che si sta occupando del ritorno di queste persone. Qui bisogna distinguere. Ce ne sono alcune che sono per esempio oggetto di domande di estradizione dei singoli stati. Vi sono due o tre detenuti per esempio a Guantanamo per cui la procura di Milano in un caso o quella di Bologna in un altro ha chiesto l'estradizione. Io penserei che per queste persone non dovrebbero esserci problemi ad essere estradate e giudicate dinanzi alle corti di competenza. Vi sono invece altre persone che risiedevano in Europa da normali cittadini e che senza essere accusati di alcunché si trovano adesso in Guantanamo, altre ancora che non risiedevano neppure in Europa ma che se tornassero negli stati di origine rischierebbero il carcere o addirittura in qualche caso la morte. Beh, allora qui a me pare evidente che si tratta soltanto di concordare una redistribuzione di questi personaggi non accusati di nulla o privilegiando le nazioni in cui abitavano, se prima erano abitanti o residenti in Europa, oppure con un accordo tra governi ospitandoli per evitare che soffrano ulteriori ingiustizie. Certo, credo che gli Stati Uniti debbano anche attivarsi sul piano degli aiuti, sul piano delle risorse materiali, visto che è l'amministrazione Bush che ha determinato il crearsi di questa situazione, per cui non può essere adesso solo un problema dei governi europei. Bisognerà che in qualche modo sul piano delle risorse materiali gli Stati Uniti intervengano in maniera decisiva. Questa è di guerra, quello è un massacratore di operai, quello è tutti i suoi compagni che sono. Ma lo spettro del terrorismo in Italia non è solo un ricordo tanto lontano. Al processo contro le nuove BR, così gli imputati hanno minacciato in aula mentre deponeva Pietro Ichino, il giuslavorista che doveva essere un loro obiettivo. Armando Spataro. Non sono tra quelli che ha mai detto gli anni di piombo sono finiti. Nello stesso tempo, con grande realismo, devo dire che pur essendo questi personaggi ora detenuti e processati, certamente pericolosi, non hanno collettivamente come gruppo lo stesso livello di pericolosità che le BR o prima linea composte da centinaia di persone avevano negli anni di piombo. Allora, io dico soltanto questo, la esistenza ancora di persone che pensano di usare l'omicidio come strumento di lotta politica erano pericolose e lo sono, la loro esistenza attuale dimostra che non si può arretrare di un passo nella necessità di punirli, anche a distanza di tempo. Le democrazie si basano anche sul fatto che chi viola le regole di convivenza civile deve pagare, a maggior ragione se ha ammazzato il prossimo. Poi ci sono le leggi che consentono, come dire, una serie di benefici individualizzati, perché al di là della legge sui pentiti e sulla dissociazione, noi abbiamo un sistema, l'ordinamento penitenziario, un sistema di esecuzione della pena che prevede benefici per chi si è dissociato, per chi non è più pericoloso, per chi ha cambiato vita, ma il presupposto è che intanto la pena si inizi a scontare. Quindi la strada è soluzioni individualizzate, ma non si può arretrare neppure di un metro nel punire oggi chi commette oggi i reati o nel richiedere e fare eseguire le condanne di chi li ha commessi in passato. E quindi forse queste anche battaglie per avere l'estradizione potrebbero avere anche un ruolo di deterrente per chi altri eventualmente mai in futuro pensasse che si può evitare di scontare la pena? Sì, molto, in maniera molto indiretta. Io credo che il maggior deterrente sia l'efficacia delle nostre forze di polizia, che sanno indagare, che non, come dire, che non mollano, che hanno ormai capacità di sfruttare le loro conoscenze. Questo è il principale deterrente, vale anche per il terrorismo internazionale.